A tempo di sport di Giovanni Capuano. E allora un buon pomeriggio da Giovanni Capuano al microfono, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete anche scriverci via Twitter, @CapuanoGio, oppure sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Tutti i nostri contatti sono aperti con voi. Oggi è una puntata speciale di A Tempo di Sport perché parleremo molto di calcio, ma parleremo anche di Formula 1 con un ospite speciale a partire dalle 17:30 con Flavio Briatore. Ma soprattutto in questa prima metà vivremo la vigilia del derby di domani sera, la vivremo insieme a due ospiti particolari, importanti anch'essi, e insieme a loro parleremo dell'anno zero di Milano. No, l'Inter è una squadra sempre molto forte, credo che sia chiaro che il campione ancora in carico del campionato, perciò tocca a noi di far vedere con i fatti che quest'anno lo scudetto deve venire dall'altra sponda. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra ha bisogno per vincere titoli. Sul Balotelli ci sono delle voci che dicono che lei è entrato nello spogliatoio dell'Inter cantando la canzoncina del Milan. No. Cos'è successo? No, non è mai successo questo. No, però lei ha detto siamo ad un punto facendo come fosse il calciatore del Milan. Perché no. Io le ho portato un regalo, no? Guardi qua cosa ho fatto fare. La bella maglia del signor Balotelli del Milan. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Bei tempi per Milano e per i suoi tifosi, quando si parlava di scudetto, quando il derby davvero contava qualcosa nella stagione. Buon pomeriggio all'amministratore delegato uscente dell'Inter, ma è ancora nel CDA, Ernesto Paolillo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Bei tempi, le ha riconosciute quelle voci? Non è passato un secolo, Sono voci veramente amiche. Seedorf, Mourinho, Balotelli e Striscia la Notizia, poi c'era l'ultimo Ibrahimovic. Buon pomeriggio anche a Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore, ma lo conoscete, esperto di bilanci delle società calcistiche. Buon pomeriggio Marco. Ciao, buon pomeriggio Giovanni. Ciao, buon pomeriggio. Sono frammenti, Paolillo, di una Milano che quest'anno, mai come quest'anno, mai come in questo fine settimana, non c'è più, e forse si è resa conto di aver vissuto per alcuni anni, gli ultimi, un po' al di sopra delle proprie possibilità? Ma non solo Milano, questo è vero, ma non solo Milano. Sopra le proprie possibilità hanno vissuto in tanti e stanno vivendo ancora in tanti, per tutta Europa. Io attualmente mi sto occupando proprio di questo per conto dell'ECA e dell'UEFA. Quello che c'è da dire è che comunque in ogni agenda ci sono dei cicli, nel calcio questo è ancora più rilevante, cicli che iniziano, vanno rapidi e finiscono, però si cominciano anche di nuovi. Belinazzo, siamo all'anno zero di Milano e mai come questa volta il derby è la fotografia plastica di un cambiamento storico nel suo piccolo, perché Milano del calcio ha vissuto anche momenti più difficili nei decenni scorsi, momenti in cui a lungo non ha vinto, però forse mai come oggi è evidente lo stacco tra quello che è stato nel passato e quello che è il presente. Beh, un po' il derby dell'austerity, si può definire in questo modo, o da un altro punto di vista, per essere ottimisti, il derby della speranza, della rinascita, il derby dei giovani. Il calcio italiano ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità economiche, forse anche come il paese, anzi senza forse, nelle ultime due stagioni, in particolare poi nell'ultima stagione di calcio mercato, ha dovuto invece invertire quello che era il trend di spese folli. Sì, siamo finiti in positivo e non capitava da una decina di anni. Non capitava da molti anni, è stata una necessità perché in particolare il tetto degli ingaggi era diventato non più sostenibile, oltre intorno ai 190-200 milioni per il Milan e per l'Inter, e l'attività diciamo di potatura delle rose faraoniche che c'erano e il taglio degli ingaggi ha fatto sì che come dire, i campioni siano andati via, che si sia ricominciato a puntare sui giovani e con una situazione, si spera, finalmente di bilancio equilibrata in ossequio ai canoni del fair play finanziario. Sì, speriamo che almeno il sacrificio sia valso qualcosa. Due numeri, Paolillo, per spiegare, ma lei ovviamente questi numeri li conosce, un po' che cosa sono stati gli ultimi anni di Berlusconi e Moratti. Il Milan ha accumulato negli ultimi 5 bilanci perdite per 236 milioni di euro, l'Inter nello stesso periodo addirittura 665, cioè insieme fanno quasi un miliardo di euro. Paolillo, sono questi numeri che ci spiegano perché era indifferibile per Berlusconi e per Moratti, prima di tutto in Italia, un cambio radicale di politica in questi mesi, in quest'estate? Assolutamente sì, i numeri sono questi e dicono chiaramente che non era più sostenibile tutto questo, alla luce non solo delle nuove regole del Financial Fair Play, che sono sacrosante, io l'ho sempre sostenuto, guardate che entreranno in vigore, e Benignasso se lo ricorderà bene quando dicevo che l'UEFA non avrebbe assolutamente dilazionato nel tempo il via a queste regole. Dall'altra parte c'è una contingente situazione economica che dice che non si può più spendere così nel calcio. Sì, perché Beninazzo, Marco, non esiste al mondo un'azienda in grado di stare in piedi con questi numeri, anche divisi fra due società, come possono essere Inter e Milan. Tra l'altro permettimi di salutare Ernesto Paolillo, che è sicuramente uno dei migliori dirigenti del calcio italiano e soprattutto uno dei più preparati, tra l'altro fino a poco tempo fa sedeva nel board dell'ECA, che è l'associazione dei club europei, ed è stato uno di quelli che ha spinto fin dall'inizio sulla necessità che il calcio italiano prendesse coscienza di quella che era la situazione, che determinati obblighi non fossero più procrastinabili. Uno di quelli che ha scritto le regole del Financial Fair Play, per intenderci, che di cui tanti parlano, ma io credo Marco e dottor Paolillo in pochi realmente conoscono. Marco? Sì, diciamo che stanno in tanti imparando a conoscerlo, anche i tifosi, perché fino a qualche tempo fa, come dire, non si voleva sentir parlare di bilanci, ma soltanto di soldi che i patron dei vari club dovevano iniettare nelle società. Oggi, di fronte a una situazione in cui si è visto andare via tanti campioni e comunque ridimensionare le aspettative di tante squadre, anche i tifosi hanno capito che con i bilanci bisogna fare i conti. Tra l'altro io non vorrei che si confondesse causa ed effetto tra fair play finanziario e crisi economica, perché il fair play finanziario è un'opportunità per riequilibrare i conti. Dobbiamo anche considerare che tanti club che avevano alle spalle finora dei patron munifici non li hanno più, e mi riferisco appunto a Milan e Inter, dove sia la Saras che la Fininvest hanno altre difficoltà economiche, giustamente hanno altre priorità e quindi non possono più dirottare tanti soldi verso il calcio. Certo, ci sono difficoltà oggettive. Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi aspettiamo domenica sera per il derby, coloriamo lo stadio di rosso-nero. Vi aspetto tutti a San Siro, per vincere abbiamo bisogno di voi. Stateci vicino che faremo una grandissima gara. È il mio primo derby e lo voglio vincere vedendo tutta la grada piena di rossoneri. Coloriamo questo stadio di rosso-nero e andiamo a vincere questa partita. Domenica dovrà essere un bel derby. Per essere un bel derby ci sarà bisogno anche di voi. E queste erano le voci dei giocatori del Milan, che in settimana hanno fatto un appello pubblico perché si riempa San Siro in questo derby. Ad oggi ancora non c'è il tutto esaurito, restano circa 8.000 biglietti in vendita. E anche questo, io credo, Paolillo, sia un segno del momento di cambiamento che sta vivendo il calcio di Milano, più in generale il calcio italiano. Aggiungo che ad esempio la prima in classifica, come il Napoli, nelle prime tre gare casalinghe ha perso quasi 30.000 spettatori rispetto alle stesse sfide della passata stagione. Quindi c'è un'equazione che non necessariamente è legata ai risultati sportivi. Assolutamente, credo che la congiuntura influisca non molto su questi dati, non poco su questi dati, però volevo aggiungere una cosa, che proprio questa congiuntura, più che la compressione di Financial Fair Play, farà cambiare l'atteggiamento dei tifosi nei confronti delle squadre in campo. Prima i tifosi si entusiasmavano a vedere i grandi campioni, Ibrahimovic piuttosto che gli Eto'o, piuttosto che tutti i Messi, tutti i grandi campioni. Adesso, in una fase di questo genere, credo che il tifoso sia stufo di spendere soldi lui per andare a vedere, che costano fatica in un momento di crisi ancora di più, andare a vedere i campioni che prendono 10-12 milioni di euro netti l'anno. Credo che il tifoso cominci a entusiasmarsi molto di più e lo sto toccando con mano con i giovani dell'Inter che entrano via via in prima squadra, a seguire e a vedere dei ragazzi giovani che non guadagnano certo queste cifre, anzi sono lontanissimi, che danno l'anima e suscitano entusiasmo. C'è una crisi di rigetto, ci sta dicendo, perché la crisi sta colpendo duro e magari seguire i capricci di alcuni procuratori, di alcuni calciatori per rinnovi, per aumenti di contratti che sono già faraonici, comincia a dar fastidio, anche se poi è vero che è un po' come la storia della volpe e dell'uva, laddove questi calciatori oggi se li possono permettere, questi problemi non se li fanno. Ancora per poco, non dimentichiamo che il Paris Saint-Germain, tanto per dare un nome e cognome a una squadra che non ha risparmiato nulla quest'estate nella campagna acquisti, non ha il bilancio sotto osservazione dell'UEFA, comincia da quest'anno, perché non partecipava alle coppe. Quindi ha fatto una grande abbuffata prima di cominciare ad avere il bilancio sotto osservazione. Prossimo bilancio sarà indubbiamente analizzato con la lente dall'UEFA, nel frattempo ecco, stanno già pensando ad eventuali elusioni, perché è chiaro che se arriva la banca nazionale del Qatar e per la sponsorizzazione da 400 milioni di euro, come si vocifera, beh, questo praticamente annulla tutte le regole del Financial Fair Play, perché diventa un'entrata commerciale per la società, non aumento di capitale, ma è un qualcosa di camuffato. Ma a suo parere, lei quelle regole le conosce bene, e conosce bene anche gli equilibri politici che ci sono all'interno dell'UEFA Platini, avrà la voglia, la forza politica anche di buttare fuori chi non si allinea? In fondo i soldi che arrivano oggi dagli sceicchi sono gli unici soldi veri che il sistema calcio europeo, che è un sistema, Marco, correggimi, indebitato credo per oltre 5 miliardi di euro, giusto? Nel suo complesso. Anche di più, ecco, sono gli unici soldi veri che stanno arrivando da fuori a finanziarlo. Bisogna anche avere il coraggio e la forza di respingerli a un certo punto. Sì, guardi, io le assicuro che questa volontà non è facile. Le prime sanzioni sono partite le squadre che non hanno saldato debiti in confronti di altre squadre che partecipano alle coppe. Questo indubbiamente è l'inizio, perché si evita una caduta a catena. Per fortuna e con mia grande soddisfazione, nonostante io sia uscito dal board de Lega, mi hanno chiesto di continuare nel ruolo di consulente per tutti gli affari economici e finanziari, per cui parteciperò a tutti i lavori che vogliono proprio eliminare queste forme di elusione. Per cui c'è questa volontà in Platini, c'è la volontà nell'UEFA, ma c'è anche la mia di continuare a dare tutto quello che posso dare per risanare questo calcio in campo internazionale. E per evitare che qualcuno faccia il furbo. Marco, ce la farà Platini ad avere questo coraggio? Abbiamo sentito Paolillo, certo, se poi arriva la Banca Nazionale del Qatar con 400 milioni di euro, allora è inutile anche scriverle queste regole, ma si tratta palesemente di un modo per aggirarle. Sì, chiaramente questi non sono meccanismi che verranno accettati dalla UEFA, sarebbe fin troppo imbarazzante. Però Giovanni, io vorrei aggiungere una cosa, se mi consenti. Prego. Quando prima dicevi che i soldi del Qatar sono, o degli sceicchi in generale, sono gli unici che arrivano a sostenere il calcio europeo in questo periodo, è vero, ma è anche vero che ci sono tanti club che fanno utili in queste ultime settimane, si sono chiusi i bilanci 2012 di Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, e hanno tutti questi club fatto degli utili. Quindi c'è bisogno di rivedere in Italia i modelli di business e se si riescono a creare modelli di business vincenti con equilibri di bilancio si riescono anche a fare utili e quindi magari si dipende anche un po' meno dai soldi degli sceicchi. È questa consapevolezza che Inter e Milan devono acquisire se vogliono poi sperare tra qualche anno magari di riavere un derby pieno di campioni affermati e non solo di giovani speranze. Vogliamo spiegare, Marco, agli amici da casa 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS, ma anche sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport, oppure via Twitter @CapuanoGio, perché in questo momento la Juventus invece sta investendo, anche se ha chiuso un bilancio che verrà ratificato dall'assemblea credo tra poche settimane, ma che è già noto ancora pesantemente in rosso, eppure con dei segnali importanti. C'è lo stadio di proprietà, è evidente anche che non riuscirà a coprire quelle che sono anche in proiezione futura tutte le perdite, però da questo punto di vista c'è un atteggiamento diverso. La Juventus ha fatto una scommessa importante negli ultimi due anni, ha investito nelle ultime due nelle campagne acquiste degli ultimi due anni 150 milioni, che guarda caso poi corrispondono al rosso realizzato tra quest'anno e la stagione precedente, insomma meno 98 la scorsa stagione, meno 48 credo in quest'ultima stagione, cito a memoria, insomma euro più euro meno siamo lì. C'è un rosso profondo, ma la Juve ha fatto degli investimenti importanti, appunto lo stadio di proprietà che ha triplicato gli incassi, anche se 30 milioni sono ancora poco, specie se per esempio confrontati con i 90 milioni che incassa l'Arsenal grazie alle strutture che ci sono intorno all'Emirates Stadium. Detto questo, però, la Juve ha puntato, come dire, a un dominio in Italia e alla speranza di tenere un dominio in Europa, ha una partecipazione stabile in Champions League che garantisce circa 30 milioni all'anno aggiuntivi, e dunque c'è da parte della dirigenza juventina il tentativo di come dire, aver fatto grandi investimenti, aver accumulato magari in questi anni un rosso, ma di puntare, come dire, almeno a un pareggio di bilancio nei prossimi anni, a una gestione sana e avendo poi degli asset patrimoniali importanti. E questo consente anche di investire poi sul mercato. A proposito di Juventus, ma io credo che non voglia parlare di Juventus, Giancarlo da Torino, buon pomeriggio. Buonasera. Prego, rapidamente la sua considerazione e la sua domanda. Ma la mia considerazione era molto semplice. Come mai gli investitori stranieri, gli sceicchi, non vengono ad investire in Italia? Vanno in Inghilterra, vanno in Francia, vanno in Spagna. In Spagna. E perché in Italia non vengono? Anche se in Spagna scappano, poi. Giancarlo da Torino, grazie. Marco, perché non vengono? Non vengono perché in Italia, come dire, gli introiti sono molto relativi, e perché invece in altri paesi, come in Premier League, come ho detto e come ripeto, c'è anche la possibilità di fare utile, c'è un mercato molto più vasto ed efficace. Pensiamo soltanto al fatto che il prossimo contratto della Premier League per i diritti TV prevederà un incasso soltanto per quelli interni di oltre un miliardo di sterline. Sì, poi ti aiuto, proprio oggi tu sul Sole 24 Ore analizzi il bilancio della Roma, che da questo punto di vista dovrebbe essere un laboratorio per il calcio italiano, perché ha attirato appunto un investitore straniero dagli Stati Uniti. Beh, io dico, se questi sono i numeri dopo un anno di cura a stelle e strisce, i numeri da lì tu, Marco, io credo che sarà difficile attirare qualcun altro. Ci stavo appunto arrivando, noi sono sbarcati in grande stile di americani con grandi progetti sullo stadio, grandi progetti legati al marketing, a collegamenti con la Disney e altre grandi come dire, occasioni di sviluppo con tante idee di quello che è il marchio Roma. Ebbene, siamo arrivati al bilancio 2012 con un rosso importante di quasi 60 milioni, con un fatturato che è sceso, visto che non c'era la Champions, a 116 milioni, e soprattutto però con un livello degli ingaggi che è di 102 milioni rispetto a 116, fa quasi il 90%, cioè il 90% delle entrate se ne vanno in ingaggi, e capisci che è un modello di business, tornando a quello che dicevo prima, che non regge. Evidentemente diamo tempo ai romani, tra l'altro io sono anche curioso di vedere l'investimento cinese nell'Inter, che cosa si tradurrà, che dopo gli annunci di giugno si arriverà alla firma. Grazie Marco Belinazzo. Paolillo, prima di salutarla per fermarci per pubblicità e meteo, lei prima ha parlato delle strategie del Paris Saint-Germain, di quello di cui si parla, di questo sostegno da parte della Banca Nazionale del Qatar, e ha usato il termine elusioni. Io volevo capire se i grandi club europei, al di fuori di questo circuito di investimenti da parte soprattutto di sceicchi, di soldi che arrivano dal profondo est, in qualche modo hanno intenzione, in progetto, di tutelarsi, se esiste anche la possibilità che, a fronte magari di una difficoltà dell'UEFA, possano procedere anche per altre strade. Ma qualcuno, qualche club ha pensato e sta ipotizzando a un, ma le dico subito che non sarà fattibile, a un campionato europeo che sostituisca i campionati nazionali e che quindi abbia una PIL almeno pari a quella di una Champions League, ma includendo anche i club che oggi fanno l'Europa League, quindi aumentando il numero delle squadre, crea un grande campionato europeo con una PIL nuovo e maggiore. Questo è materia indubbiamente di studio, però siamo molto lontani da una realizzazione. E le dirò di più, ucciderebbe il calcio nazionale, perché se lei toglie dal campionato italiano Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio e Udinese, per parlare di quelli di quest'anno che fanno le coppe, e Napoli, mi dica l'altro campionato che lo segue. Sì, che senso avrebbe? Però i club, i grandi club europei, confidano che Platini abbia la forza per far rispettare fino in fondo il fair play finanziario. Lei parla con loro, parla anche a nome loro da un certo punto di vista, ci ha spiegato prima qual è il suo ruolo. Sarebbe inaccettabile se da qui a due o tre stagioni, cioè con i bilanci ad esempio del Paris Saint-Germain sotto osservazione, poi non scattasse alcun tipo di sanzione a fronte di situazioni patrimoniali che evidentemente in questo momento non possono sostenere quel tipo di investimenti. Ma guardi, scatteranno senz'altro, perché io ad esempio quando parlo col Manchester United, con David Gill, che è uno dei più forti sostenitori del fair play finanziario in Inghilterra e in UEFA, vedo la sua attenzione e la sua rabbia verso i comportamenti dell'altra squadra cittadina, il Manchester City. Quindi saranno i primi loro a mettere in risalto le illusioni o i tentativi di illusioni dell'altra squadra inglese. Ci sarà un controllo, ci sarà un controllo incrociato. Il controllo incrociato, lo stesso accade a Londra, quindi praticamente accade anche in Francia, perché Marsiglia e Lione non saranno certo guardare. Il mio amico Olà, che è un attento imprenditore, non lascerà certo che Parigi possa fare queste cose in questo modo. Le chiedo una risposta flash, sì. Paolillo, Inter e Milan, con le ultime operazioni, quelle di quest'estate e anche strutturali, sono finalmente dentro o no questi limiti del fair play finanziario? Abbiamo davvero pochi secondi. Allora, sono tutte e due dentro, l'anno prossimo saranno tutte e due dentro, a condizione che entrino in Champions League e abbiano quei 32 milioni di euro nelle entrate che la Champions assicura chi fa il primo girone. Quindi se dovessero restare fuori, ci attende, o per Milan o per Inter, un'altra estate di diciamo di cessioni dolorose, comunque di operazioni al risparmio. Esatto, assolutamente sì. Grazie ad Ernesto Paolillo, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scrivere sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport, che tra l'altro è una bacheca, ve lo dico con grande piacere, aperta tutta la settimana, dove noi pubblichiamo spunti, riflessioni, notizie e anche riprese da quello che viene detto e scritto che passa da Tempo di Sport, e aspettiamo i vostri commenti, le vostre riflessioni. E poi potete scriverci anche via Twitter, @CapuanoGio. Il derby di domani sera non è ovviamente soltanto una questione economica, è anche e soprattutto una questione di campo. Oggi hanno parlato i due allenatori, e allora in un minuto la fotografia della vigilia di Massimiliano Allegri. Credo che il derby sia una partita diversa dalle altre, una partita dove non c'è un favorito, anche se di solito la squadra favorita è quella che sta avanti in classifica. e l'Inter è una squadra che con i giocatori che ha a disposizione sicuramente a livello di esperienza ne avrà più di noi, quindi ecco perché bisogna essere molto più svegli domani nelle situazioni di gioco e nel valutare i momenti della partita. Credo che ogni giocatore sia differente l'uno dall'altro, credo che Sharabi abbia le caratteristiche completamente differenti da Shevchenko. È un ragazzo che all'inizio della sua carriera, è un ragazzo che deve dimostrare nel corso della carriera di poter rimanere al Milan per tanti anni, è un ragazzo che deve crescere sotto tanti punti di vista. Domani il risultato è importante, come è importante con tutte le altre partite, però la squadra sta crescendo, bisogna migliorare molto la fase difensiva come squadra, questo credo che sia una cosa che andremo a migliorare. E questo era Allegri, rapidamente sentiamo anche Stramaccioni. Io credo che sia la classica partita da tripla, cioè nel senso in schedina, quindi sfugge magari a un pronostico, chiamiamolo con cognizione di causa. È una partita affascinante. Sì, hanno avuto un giorno di riposo in più, però hanno avuto magari una partita più intensa, cioè a me non piace mai cercare, come posso dire, dei presupposti di alibi, ok. Io credo che sarà, ogni allenatore ha gestito al meglio in relazione al gruppo che ha la settimana con i tre impegni. Per noi il risultato di domani sarà importante e l'Inter l'affronterà con la stessa aggressività e voglia di vincere che ha avuto nelle ultime partite. Però siamo all'inizio di un cammino e secondo me l'esasperare in positivo la preparazione di questa partita può intralciare questo percorso di crescita, perché non deve essere un Inter che cresce come ha fatto con la Fiorentina. Io spero che l'uomo derby sia un giocatore con la maglietta nerazzurra, questa è l'unica cosa che spero. Se l'uomo derby è un giocatore con la maglia nerazzurra, vuol dire che domani sera staremo commentando una vittoria. Quindi se poi a Cassano o Andanovic, diciamo che a me interessa fino a un certo punto. E già, perché il derby è anche Cassano contro Pazzini, che è stata, oltre che uno scambio dal punto di vista tecnico, su richieste di Allegri e Stramaccioni, è stata anche una meravigliosa operazione di architettura finanziaria che ha consentito di dare un'altra limatina ai bilanci di Inter e Milan. Lorenzo dalla provincia di Como, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Senta, per quanto riguarda il fair play finanziario, il fair play finanziario deve essere fatto anche con regole uguali per tutti, stesso problema della fiscalità diversa per ogni paese europeo. Dunque, se non si riesce a fare questo a livello europeo, vedo difficili squadre come quelle italiane che si lamentano che bisogna pagare tante tasse per gli ingaggi dei giocatori contro quelle spagnole che hanno dei vantaggi economici. Sì, anche se quella del vantaggio economico della fiscalità spagnola è diventata ormai una leggenda metropolitana, perché la ley Beckham non esiste più da un paio di anni, oramai stanno andando in scadenza anche i contratti di queste grandi stelle chiamate in Spagna con il miraggio di questo 24% di tassazione, tant'è vero che i prossimi rinnovi contrattuali, il primo lo stiamo vedendo già col Real Madrid con Cristiano Ronaldo, pongono anche questo problema alle società spagnole, che oggi anzi paradossalmente dal punto di vista della tassazione sono penalizzate rispetto a quelle italiane. Però è evidente che serve un sistema di regole uguali per tutti anche da questo punto di vista, e serve soprattutto che l'UEFA, lo diceva prima Ernesto Paolillo, abbia la forza e il coraggio di andare fino in fondo. Buon pomeriggio a Federico Casotti. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Federico, collega di Sport Italia che conosce molto bene le realtà del calcio europeo. Avevamo prima con noi Ernesto Paolillo e ha detto saranno per primi gli stessi club che non accetteranno che ci siano elusioni, ha usato questo termine, da parte degli sceicchi a Manchester, a Parigi o dovunque vogliano mettere i loro soldi. Penso proprio di sì, io mi metto nei panni dei club tedeschi, tanto per dire, un Bayern Monaco che genera utili da 20-30 anni non può accettare di mettersi sullo stesso piano con club che invece spendono e spandono fregandosene delle regole, ma mi metto anche nei panni di certi club italiani che hanno imboccato una strada virtuosa, magari per forza, magari per scelta precisa, ma che stanno seguendo le regole. È evidentemente una disparità che può portare o a clamorose esclusioni o a una situazione drastica che potrebbe anche essere una Superlega europea. Però mi chiedo, una Superlega europea di quel tipo che appeal avrebbe, nascerebbe zoppa inevitabilmente. E ne parlavamo proprio prima con Paolillo, che lavora con l'ECA, che è proprio la Confindustria, l'associazione che mette insieme tutti i principali club europei. Qualcuno spinge per questa soluzione, però ha detto siamo solo all'inizio di un percorso ed è tra l'altro molto difficile che questo percorso possa arrivare alla fine. Ho l'impressione che a Parigi, per fare una sintesi anche un po' brutale, se ne freghino di tutti questi discorsi che piacciono tanto a noi, magari piacciono anche alle altre francesi. Oggi ho letto sull'Equipe, ad esempio, un'intervista di Al-Khelaifi, che è chi mette i soldi, diciamo, nel Paris Saint-Germain. Ha detto Cristiano Ronaldo a Parigi nella prossima finestra di mercato estiva è un'operazione credibile. Sì, la leggevo anch'io, c'era proprio anche una pagina dove si elencavano tutti i motivi, le ragioni che rendono realistico il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Se non l'avesse detto uno che in un'estate ha speso quasi 150 milioni di euro, potremmo ridere. Direi che dopo quest'estate invece abbiamo imparato che dobbiamo prenderlo terribilmente sul serio. Sì, anche perché vediamo che è comunque un progetto, comunque da si vede. È chiaro che è un progetto con passi da gigante, il gigante fa passi enormi, però effettivamente da un certo punto di vista, se vogliamo filosofico, è un progetto. Si parte prendendo Pastore il primo anno, quindi un giocatore con una potenziale scommessa, un potenziale campione a prezzo da campione. Quest'anno si è preso Ibrahimovic e Thiago Silva e l'anno prossimo si punta però davvero al uno dei due migliori giocatori del mondo. Quindi una certa gradualità, una certa progettualità, anche se su cifre molto alte, c'è. Altro discorso è quello del fair play finanziario e in generale della sostenibilità di questo progetto, perché Platini nelle ultime settimane ha detto che insomma il Paris Saint-Germain, per essere ammesso alla Champions League nel 2014, dovrà essere molto creativo. Sì, infatti, un po' timidino, però Platini, io l'ho visto e l'ho sentito bacchettare in maniera molto più dura, ad esempio i club italiani ed inglesi, anche con battute che onestamente arrivavano nel momento forse meno opportuno. Intanto domani il Paris Saint-Germain, Federico, ed è il motivo per cui ti abbiamo chiamato, perché questo è anche il fine settimana dei tanti classici, dei tanti derby in giro per il calcio europeo. Beh, domani il Paris Saint-Germain va a Marsiglia in quello che è il classico francese, indietro in classifica, e forse due mesi fa nessuno questo poteva immaginarselo. Sì, mi ricollego brevissimamente alla cosa di Platini che dicevi, per chiuderla. Il figlio di Platini lavora per la Qatar Sport Investment, che è la società che è proprietaria del Paris Saint-Germain, quindi ecco spiegata anche la timidezza di Platini. Ce lo segnalava anche Giuseppe, ecco, via SMS al 349-238-6666, ma quale autorità può avere Platini sul fair play finanziario al Paris Saint-Germain quando suo figlio ha un ruolo di primo piano nella fondazione del Qatar che controlla e finanzia il Paris Saint-Germain? Beh, certo, questa è una posizione quantomeno scomoda. Sull'aspetto tecnico, le sorprese sono due. Innanzitutto perché si pensava, forse con eccessivo ottimismo, che il Paris Saint-Germain avrebbe, parliamoci chiaro, vinto tutte le partite o quasi, o comunque si sarebbe presentato a questa sfida in testa alla classifica, ma soprattutto mai più si immaginava che il Marsiglia si sarebbe presentato a questa sfida con il coltello dalla parte del manico o comunque con tre punti di vantaggio. Sono due modi di sono due anime della Francia, perché ovviamente Marsiglia e Parigi sono i due opposti della Francia, non solo nel calcio ma anche nel modo di gestire le società e il mercato. Abbiamo detto, straparlato del Paris Saint-Germain che ha speso infischiandosene del fair play finanziario, l'esatto opposto ha fatto il Marsiglia. Il Marsiglia non è una società povera, perché la famiglia Louis Dreyfus, che è proprietaria del Marsiglia, sì, non ha problemi di soldi. No, perché è uno dei gruppi industriali più ricchi del mondo nelle materie prime, fortuna incalcolabile, però l'ereditiera, che è la vedova del vecchio magnate, ha stretto i cordoni della borsa, e quindi il Marsiglia quest'anno ha speso euro zero per il suo mercato. Ha preso un giocatore dal Nantes in Serie B a costo zero e per il resto ha pensato esclusivamente a fare cassa. Però evidentemente la negatività, che le scorie che si erano generate lo scorso anno nella fine della gestione dei Deschamps, nonostante l'eliminazione dell'Inter in Champions League, che ricorderete, erano tali che la situazione non era più sostenibile. Quest'anno, con maggiore serenità, si sono recuperati dei giocatori che sembravano irrecuperabili, e penso al centravanti Gignac o anche i figli di Abedi Pelé. Saluto, grazie Federico Casotti. Ricordo domani sera alle 21 il classico francese tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Grazie Federico, e do il benvenuto invece a Flavio Briatore. Buon pomeriggio Briatore. Ciao, buongiorno. Parliamo di Formula 1 e parliamo di Schumacher, perché è stata la sua settimana. Io Briatore ho letto da qualche parte che lei pensa, ha detto che Schumacher si è ritirato troppo tardi, ha preso la scelta giusta ma è in ritardo, davvero? Ma io credo di sì, perché fa piacere ricordarsi il primo Schumi, cioè lo Schumi della Benetton e lo Schumi della Ferrari. Da quando è rientrato credo che ha fatto un podio e un insieme di incidenti, per cui è bello ricordarsi un pilota quando è all'apice della carriera. Ha macchiato un po' la sua carriera con queste brutte figure, ha macchiato un po' la sua carriera. No, ma non sei più competitivo, a 40 anni, 42 anni non puoi più essere competitivo rispetto a dei ragazzi che ne hanno 25, 28, 30, per cui... E poi è entrato in un momento con dei piloti fantastici come Vettel, come Fernando, come Button, come Rosberg, per cui è entrato in un momento in cui c'erano Hamilton, c'erano dei piloti giovani e velocissimi. È un po' un peccato, una fine ingenerosa, quella di essere bollato, di farsi dare dell'anziano con i riflessi un po' rallentati, come è successo a Singapore, dove è andato a sbattere su un avversario, adesso io non ricordo il nome. Però è un po' ingenerosa come fine. Ma credo che lui abbia fatto questa scelta, ha capito, ma anche oggi hai visto, era molto in confusione oggi. Secondo me quando uno dice che smette, dato che la Formula 1 è come un mestiere pericoloso, deve smettere e non correre più, cioè lui deve dire smetto e la Mercedes lo deve sostituire con qualcuno. Anche queste ultime gare sono troppo. Michael in difficoltà. Anche queste ultime gare sono troppo. Esatto. È stato o no il pilota più grande del secolo? Ma questo lo dice Ross Brown, ma io non. Io credo che il secolo abbiamo avuto Senna, abbiamo avuto Prost, abbiamo avuto Schumi, abbiamo avuto Fernando. Secondo me Fernando, io l'ho avuto tutti e due, non ho avuto Senna, ma ho avuto sia Fernando che Schumacher, credo che Fernando sia forse il pilota più forte. Valgono di più le vittorie di Alonso oggi, cioè Alonso è su una Ferrari che non è la macchina più veloce, Schumacher è stato un fuoriclasse incredibile, però è anche vero che ad esempio molte delle sue vittorie le ha scritte con una macchina che dava in partenza un secondo quasi a tutti gli altri. Ma io non direi quello, perché quando vinci è sempre merito anche del pilota, ma Michael è stato in Ferrari, dal 2000 ha vinto con la macchina molto competitiva, anche con una macchina meno competitiva. Fernando è più su, in una gara Fernando è quello che non perde mai un decimo, per cui è su 75 giri Fernando 60 o qualunque sia la lunghezza del Gran Premio, errori non ne fa. Ed è sempre molto, praticamente lui è come il computer, quello che ti dice il computer lui lo fa, se tu facevi il calcolo che dopo 35 giri uscivi per un pit stop e dovevi avere un vantaggio di 3 secondi sul secondo, era 3 secondi sul secondo. Sì, no? non sbaglia. Non 5, non 4, non 3, era quello che era calcolato a tavolino. Tornando a Schumacher, non c'è un po' di ipocrisia secondo lei in questo coro di consensi adesso che ha annunciato che se ne va? In fondo fino a una settimana fa, fino a 10 giorni fa tutti gli davano del bollito, oggi che ha annunciato il ritiro si riempono le pagine dei giornali di nuovo per celebrare il suo secondo ritiro, la sua epopea, la sua leggenda, i 7 titoli che però risalgono oramai a 6-7 anni fa, che in un mondo come quello della Formula 1 che corre velocissima significa davvero andare alla preistoria. Ma qui è sempre così, no? Difatti io credo di essere stato l'unico a dire che Schumacher ha fatto una cosa intelligente 3 anni in ritardo, ma è sempre così. Gli altri sono un po' ipocriti. Purtroppo è così, perché gente che se era così bravo, il pilota del secolo, come ha detto Ross Brown, e il pilota più fantastico, come ha detto il responsabile della Mercedes, perché l'hanno licenziato, cioè se era così bravo, perché l'hanno fatto fuori? Se era così bravo... Io avevo il pilota del secolo, avevo il pilota che nella seconda fase della sua carriera, testualmente detto dal responsabile Mercedes, è stato straordinario, beh, uno così io non lo metto fuori. Ha senso fare come ha fatto Schumacher, che ha scritto una lettera aperta ai suoi tifosi, ha scritto: io ho imparato a 40 anni che perdere è più istruttivo che vincere, non c'è un po' di ipocrisia anche in queste parole? avversario, perché perdere a Michael non è mai piaciuto. È stato con noi, io sono stato con Schumi per 5 anni e non ho mai visto gioire quando perdeva, anzi era sempre incazzato nero. Per cui tutte queste cose qui... Si è un po' imborghesito dopo il rientro. No, io credo che lui deve rimanere il mito che era, un pilota fantastico, ha dato moltissimo alla Formula 1, ha dato moltissimo a me, ha dato moltissimo alla Ferrari, alla Benetton, e basta. Dobbiamo ricordarlo come uno dei grandi piloti che ha fatto la storia di questo sport fantastico, ma di lì in avanti basta. Le rubo ancora solo un minuto, Briatore. Domani c'è il derby di San Siro, lei spesso frequenta la tribuna a San Siro, domani è a Milano per il derby o ha altri impegni? No, domani sono in Kenya. Domani è in Kenya, beh, beato lei. Non ci sarà nemmeno Berlusconi, che è in Russia a festeggiare l'amico Putin. Lei che conosce bene il presidente, lo ritiene credibilmente ancora così legato al Milan o si è un po' stufato? No, io credo che quando hai una squadra sei legato alla squadra fino al momento in cui non la vendi. Io sono convinto che il presidente è molto legato al Milan. Logicamente in certi momenti si devono fare delle scelte importanti. Quest'anno il Milan ha fatto la scelta di vendere Ibra al Paris Saint-Germain. Era una scelta obbligata. Ma sì, ma parliamo di cifre che sono... Ma Berlusconi può permettersi, Briatore, un Milan di essere presidente di un Milan senza ambizioni? Proprio per come è lui, per la sua necessità, anche a livello di immagine, di successo? Ma io credo che se questi ragazzi qui cominciano a vincere, si iniziano a vincere anche loro, devono avere più fiducia in loro stessi, perché poi non è che il Milan sia una squadra... È una squadra di Serie B, una squadra di blocchi. Il Milan è una squadra che ha dei giocatori molto buoni, ancora giocatori fortunati che devono rientrare. Non che, ma sai, lo sport è sempre così, basta fare 4 vittorie, sei un fenomeno, per 2 partite sei un pirla, per cui la squadra è sempre uguale. Io credo che ha fatto bene a vendere. Cosa ha venduto? Incassato, credo, una cifra. È incassato 60 e passa milioni, il bilancio sarà in pareggio. Credo che in 5 anni risparmino 150-160 milioni di stipendi. Briatore, ho ancora pochi secondi, le faccio un'ultima domanda. Si è scritto in questa settimana che è la settimana che è stata, sarà nel prossimo Milano, ci sarà spazio per Galliani. Ci crede o no? Un sì o un no di risposta? No. Assolutamente? No, assolutamente. Grazie a Flavio Briatore, grazie a Giorgio De Luca, grazie a Paolo Corleone, grazie a tutti voi. Domani è Tempo di Sport, torna alle 16.30, ci sono tantissimi ospiti, vale la pena seguire la giornata di campionato che ci porta poi verso il derby. Grazie per essere stati con noi.